Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ci siamo, caro Oscar. Eccoci qua. Io lo so, caro Alessandro, che questa è una giornata particolare. Ma solo perché è San Siro? No. Perché oggi, anche se è San Giovanni della Graticola, tra gli altri santi, vale solo per gli interisti e non vale per te. Che sei ebro, quindi bisogna tenerti bello ancorato. Dai. Alla realtà, ci penserà il mercoledì il Palermo a tenermi ancorato. Ognuno ha i suoi alti e i suoi bassi. Comunque, il santo di oggi è Santa Brigida d'Irlanda, ma è anche San Giovanni della Graticola, oltre che Agrippano, Orso di Aosta, Severino di Ravenna, Sigiberto, Trifone, ce n'è per tutti, ma soprattutto oggi è il World Jihad Day, Jihad non Jihad, cioè la giornata internazionale del velo islamico. Che bello! E quindi ne scrive oggi per Luigi Battisti sul Corriere. Quindi, cari amici interisti, il velo islamico oggi vi si addice, copritevi un pochino. Esatto, copritevi. Allora, noi parleremo più avanti, ma vogliamo subito convocare i nostri ascoltatori sul tema delle unioni civili dopo il Family Day 800 24 00 24, perché gli organizzatori dicono: dopo il Family Day eravamo 2 milioni, al di là delle cifre, che vabbè, 3, 4, 10, 20, 50. Ma io dico anche un po' chi se ne frega della questione delle cifre. Però il dato politico è che quelli che erano in piazza dicono: Renzi, ci vedi? Ritira questo disegno di legge, perché altrimenti noi ritiriamo il nostro voto nei tuoi confronti. Non ti votiamo più. Non è expedit, ritornano a un classico expedit. Del voto dei cattolici ricattatorio nella storia italiana. Ah, eccola qui, Giannino subito. La storia non c'entra. Giannino, il voto però è libero, è libero, possono votare come credono. Ma poi ci sono vescovi che contravvengono al concordato apertamente, come ieri l'hanno letto tutti, ma non è il solo, l'arcivescovo Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso, che immediatamente ha lanciato un appello: capo dello Stato non puoi votare le unioni civili. Ah, e questa è un'indebita ingerenza. Ha tirato, com'è che si dice, Mattarella, per la giacchetta. Non è che ha tirato per la giacchetta, gli ha prescritto cosa non deve fare in quanto cattolico osservante. Ripeto, violazione patente del concordato e dell'intesa. Comunque, concordato è con la Santa Sede, l'intesa è con la CEI. Quindi. Massimo Gandolfini, che è uno degli organizzatori del Family Day, dice così: mi sento tradito proprio anche dal punto di vista più profondo dell'uomo, dal punto di vista della coscienza. E attenzione, perché non è questione che mi sento tradito io, ma ci sono tantissimi elettori PD che si sentono traditi. Capisci? Tantissimi elettori PD. Ma io prima avevo Mario Di Nolfe, le 6.30, ha detto: no, ma se passa questa legge è chiaro che io Renzi non lo voto più. Cioè Lega, proprio le due. Dice: questo è ovvio, è chiaro, è palese. Benissimo. Tu dici, però questo è un punto per Renzi di cui dovrà tenerne conto, no? È vera questa cosa. Però è vero il fatto, e già si è visto, che in realtà quando si è avvicinato nelle ultime due settimane, prima il tema non aveva questi toni, quando si è avvicinato al voto del Senato, dove è noto la maggioranza è sul filo, anzi senza Verdini non c'è, lì abbiamo appreso che c'erano 20-24 parlamentari PD che hanno iniziato a depositare centinaia di emendamenti e ad assumere un tono che prima non avevano. Evidentemente dal basso il Movimento Cattolico e dall'alto la gerarchia ha esercitato la pressione che si legge nelle parole di Gandolfi. Però Oscar, tu ben sai che un politico punta ai voti. E allora un politico di fronte a una minaccia, che poi bisogna vedere quanto è concreta e quanto verrà mantenuta, di tot migliaia di persone, lasciamo stare 2 milioni, un milione, tantissime. Che comunque molti magari non erano in piazza, ma la pensano così. Dubbio. È il politico che fa, in teoria per pragmatismo Renzi dovrebbe dire: Renzi dice dritto. Tireremo dritti. Adesso vediamo con quanti emendamenti, quanto stralciano. Quale compromesso? Mi pare capire che la Special Adoption, già come la descrivono oggi, non è neanche lontana parente di quella che era due settimane fa, perché c'è un filtro giudiziario sottoposto a una pluralità di condizioni tali per cui. Quindi bisognerà vedere che cosa resta di questo testo. Sì, però questi... Non ti dimenticare che poi il capo dello Stato è già intervenuto 2 settimane certo, fa, pesantissimamente. Ma questi del Family Day però chiedono non qualche modifica, cioè chiedono il ritiro del disegno di legge. A questo punto mirano al bersaglio grosso, ecco, cioè a umiliare Renzi e a tutti coloro che pensano che le corte, che le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non siano delle sentenze emanate dagli unni o dai barbari alle porte, ma sottolineano un problema. Quelle sentenze ci sono, l'Italia ha un buco nero nella sua legislazione e improvvisamente invece questo viene attribuito al demonio. Ah, il demonio sembri padre Livio Fanzaga. Io? No, no, loro, senso, io, senso, io no, no, vai che ti rimballo il demonio. Ma io demonio ti rimballo con... loro ti rimballo, sì, certo. Non so se hai letto sui giornali. Come no, ma cioè, padre Livio io poi leggo titoli del diavolo No, ma io leggo titoli di oggi. La stampa di oggi non è che me ne invento io. Parla di Gandolfini, quello che abbiamo sentito tra l'altro poco fa. La divina provvidenza mi ha detto di scendere in piazza. C'hai il collegamento diretto e dacci sto numero. No. Dai. Insomma, sai che i titoli a volte magari sintetizzano un po' le opinioni. No, è un virgolettato. Comunque, è un 800 24 00 24. Ma io invidio, voglio la chiamateci e chiedeteci. No, Divina Provvidenza, chiamaci subito, intervenire in diretta. Chiamateci, così ci illumina. E diteci secondo voi cosa dovrebbe fare Renzi. Ma Renzi vuol dire un politico, cioè un politico di fronte. Certo, adesso certo, il Presidente del Consiglio è lui, la maggioranza è questa, ma di fronte a questa richiesta esplicita, cioè ritirare. Esatto. La legge non vi votiamo. Però caro Oscar, poi ne parleremo, voi chiamateci, ci sono tante belle storie di latrocini pubblici oggi sui giornali, se li vogliamo. Una sul Corriere non è male, 4 miliardi è ciò che in 10 mesi nel 2015 gli statali infedeli hanno truffato lo Stato, che poi saremmo tutti noi. Tra sanità e appalti, sì, ce n'è di tutto. Assenteisti, so, appalti. Tutti, no, come tutti noi. Non sei dello Stato tu? No, francamente. Vabbè. No, lo Stato è il socio che non mi sono scelto, il parassita che infetta il mio sangue. Però hanno tolto soldi anche a te. Ah, ma no, però sia ben chiaro che tra lo Stato e te e me c'è una certa differenza. Sì, questo... sì, sì, questo l'abbiamo un po' intuito. Però no, voglio dire, hanno tolto soldi alla comunità. Allora va bene così? Se li sono messi in tasca. Fai parte della comunità, questo sì. Non lo sì, so. Se io faccio parte di quelli che finanzia questi signori, come te, come certo, tutti noi. Infatti, noi siamo infatti i finanziatori, questo è il punto. Questo sì. Oime, oime. E poi non solo lì si truffa. C'è una cosa che racconta Gian Antonio Stella che ti vedeva molto infervorato prima. C'è un verbo in particolare. Com'è il verbo che si usa al Senato per dire? Ah, al Senato questa è bellissima. Armonizzano lo stipendio. Siccome il nuovo Senato dovrebbe guadagnare come i nuovi senatori, come i consiglieri regionali, quindi meno di quello che è attualmente. Loro del Senato stanno pensando, racconta Sergio Rizzo, di armonizzare il loro stipendio a quello della Camera. Della Camera, cioè noi non abbiamo più il bicameralismo, non c'è più l'elezione diretta, c'era stato detto che il grande risparmio. E invece loro armonizzano e noi ce la prendiamo al fondo schiena. Io infatti ho invitato tutti gli italiani oggi ad andare al proprio posto di lavoro e a chiedere una armonizzazione del loro stipendio, che ne so, a quello del primo dirigente, io, a quello dell'amministratore. Sbaglio a gridare ogni tanto stato ladro, ma se finisce veramente così questo stato del Senato è roba che bisogna andare fuori a fare il presidio e a non farli più uscire, cioè visto che è un così bel posto e si trovano così bene dentro, chiusi dentro e non li facciamo più uscire. Però vedi come sei, loro sono io cattivo, loro sono sempre, buoni, io armonizzano. Loro e tu sei aggressivo e io sono per le dissonanze. Certo, invece che ci vuoi fare? Tra l'altro c'è anche la storia del barbiere dei deputati che è stato promosso assistente, che soavemente dice ma questo è un posto di civiltà, c'era da prima, ci sarà sempre, cioè qua siamo tutti convinti di rappresentare una specie di monumento dell'UNESCO, sì, la barberia del Senato. Sì, la barberia del Senato, che diventa il barbiere diventa assistente. Vabbè, magari sa tagliare le leggi come sapeva tagliare la barba e i capelli. Ma no, ma credo che lui sia l'unico che li tagli in quel palazzo. Esatto. Gli altri non tagliano mai niente. Ci siamo persi l'unico che tagliava, il barbiere forse della Camera. Questo è il suo unico vero grande merito. Ma poi, a proposito di come funziona, viste, per il settore pubblico non è tutto così. così lo Stato, il settore certo. pubblico, assolutamente no. Ma siccome ci raccontano sempre che si esagera a dire che bisognerebbe tagliare, ecco le dimostrazioni che, altro che, se si può ancora tagliare senza incidere nei servizi pubblici. Ma vogliamo parlare del figlio del rettore di Messina, l'ex rettore per Messina, lungo tempo sì. Rettore di Messina, e vogliamo parlarne. E questo figlio che ha fatto? Ha vinto un concorso per professore ordinario. Ma guarda caso, ha vinto un concorso molto più giovane di chi gli si era contrapposto nel collegio, essendo già da anni professore associato. Si trattava di diventare ordinario, e naturalmente è uno di coloro che hanno ritenuto di avere più titoli e che l'ha perso, è andato a controllare come l'aveva vinto il suo scritto. E naturalmente ha controllato e ha trovato che c'erano decine, centinaia di citazioni totalmente uguali fino alla virgola rispetto al maestro di cui si professor Amoroso, di cui si trattava di succedere come ordinario, tanto cioè, l'amore è copia incolla, sì, praticamente, capito? Però il bello è che dopo l'esposto, la denuncia eccetera eccetera, lo hanno confermato il ministero, detto sì, il ministero ha detto sì, confermiamo. E questi sono i criteri, capisci? Poi, quindi io posso dire a mia figlia oggi, che avrà una verifica in quarta elementare, alla verifica sui verbi: cara Angelica, se mi ascolti, stai entrando a scuola, pare, secondo il ministero, che si possa copiare, pare, perché insomma, e quindi non lo so se vuoi sbirciare da Giulia nel banco, pare che si il ministero... diventa professore ordinari dopo figli, dopo essere stato figlio di un grande rettore, si diventa ordinari, e poi soprattutto anche di fronte alla prova patente, e no, si viene confermati professori ordinari. Questo ricordatevi che nel 2013 io proruppi in un certo punto di fronte a un certo rettore che si comportava in un certo modo, naturalmente la cosa mi è costata molto, in una espressione molto forte, che dicevo che d'ora in poi mi sarei rivolto nei suoi confronti dicendo: taci miserabile. E come si vede, però forse l'hanno tutti torti. Va bene, c'è chi ci scrive: Gianni, io armonizzo con le idee di Oscar, Stato ladro, no, governo ladro, però lui ha detto Stato ladro. Io di solito dico sempre sì, Stato. In questo caso identifico il comportamento nelle cose più generali. Comunque, Oscar, ci chiamano in tanti, il tema poi in realtà politicamente secondo me è caldo, quello di unioni civili, anche se forse un po' per alcuni ha stancato, però il tema politico sul adesso... mettiamolo ricatto, cioè ricatto ma non nel senso brutto, cioè di se passa sta legge noi non ti votiamo più. Giovanni da Pesaro, che ne pensa? Ne penso che Renzi si è messo in un cul-de-sac, come si dice, secondo me, però ha voluto fare così. Ma al di là di quello che io penso, che comunque le unioni civili le posso le capisco, le comprendo. Sicuramente non comprendo l'adozione a famiglie gay o all'utero in affitto, che è un obbrobrio. L'utero in affitto non c'è. Diciamolo per una questione di correttezza, cioè l'utero in affitto è vietato in Italia e questa legge non rende legale l'utero in affitto. È stato sempre così in Italia. Nel 74, quando c'è il divorzio, si diceva che dopo quello non succedeva niente, poi è venuto l'aborto, poi si era anche l'eutanasia. È un processo che va avanti, io lo condivido in parte, nel senso che posso capire che vogliono mettersi insieme, ma sì, per carità, per la successione, tutto quello che volete, va benissimo. Però non i figli. Un babbo e una mamma, cioè, questo è naturale. Va bene, così, quindi se passa questa legge, lei Giovanni, cioè, che potrebbe, non so cosa ha votato, non so se ce lo vuole dire, ma potrebbe decidere di votare in base a questa legge? Lo stimo, anche se sono un elettore di centrodestra, tanto per essere chiari. Non ho capito però chi stima, non si è capito. Con questa cosa però non sono d'accordo. No, ma non si è capito chi è andata via la voce su chi stima lei, chi non ho capito. Io stimo come premier, con tutti i limiti, Renzi, per carità. Non lo condivido al 100%, però fa delle cose che per 20 anni non sono mai fatte. Diciamo, sulla questione del Senato, apro una parentesi, sono d'accordo con Giannino, se fanno quella cosa vengo giù anch'io a Roma a chiedere Ma guarda, però io non lo so, loro sono così armonici, loro armonizzano. Con i soldi nostri armonizzano. Si armonizzano lo stipendio, fanno una cosa così quasi bucolica e voi subito aggressivi. Vabbè Giovanni, sto scherzando, grazie. Damiano da Modena, buongiorno Damiano. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Eccoci. Niente, io volevo fare solamente una piccola considerazione. Io sabato sono uno di quelli che è stato al Family Day. Sì. Ieri in famiglia, parlando appunto della mia esperienza vissuta al Family Day, in casa mia siamo 5 fratelli e ci siamo sempre un po' divisi nel momento in cui ci sono le votazioni. Ieri ho avuto questo dibattito con mio fratello perché ho detto, come ripeteva lo striscione in piazza, Renzi, stai attento perché ci sono dei voti in ballo. No. Quindi lei, il suo voto, giustamente fa, Renzi è stato l'unico in questi 3 anni a fare qualcosa, neanche Berlusconi non ha fatto così tante cose in 10 anni. Vabbè, avete fatto un dibattito familiare, vabbè. Però mi dica lei cambierà il voto in base a questa legge? Il proprio voto? Io purtroppo penso proprio di sì, perché nel 2007 Renzi era nella stessa piazza, ha cambiato idea. Sì. Ah, quindi ha tradito un mio voto. Ma mi scusi, Renzi era in piazza difendendo la sua opinione, la sua certo. Parabola personale, culturale, la Gesci, rispettiamo tutti. La stessa no? Cosa ce l'ha dice, ce l'ha detta Di Nolfi, ha tradito perché era, ecco, era con noi. Ma io mi limito a fare 2007. Un'osservazione, perché io tengo i toni bassi, ho le mie idee, però per dire ha tradito, è diventato Presidente del Consiglio, adesso agisce da Presidente del Consiglio. Come Presidente del Consiglio ha un compito di rappresentanza non vastissima, perché è il governo di tutti. Mm-hmm. C'è un problema che siamo un paese con un buco su questo. Ripeto, le sentenze della Corte Europea dei Diritti, perché non è che possiamo dimenticare da dove nasce l'iter pluriennale lunghissimo di questo provvedimento, e quindi interpreta i suoi doveri verso l'Italia. Lei, e io lo capisco, dice ha tradito. Ma il problema è che quando si assume un incarico istituzionale nazionale, il problema è fare i conti con i doveri che questo impone. Però io rispetto il punto di vista suo, di tutti gli altri. Così facendo, la rappresentanza sarebbe solo la somma di opinioni elidenti che rimangono dure, intransigentemente irriducibili rispetto a qualunque altra opinione. Sarebbe un paese, su questa come tutte le altre questioni, sempre sull'orlo di una permanente guerra civile. Chi ha incarichi istituzionali deve svolgere un ruolo diverso. Guidare una comunità non è dire il mio punto di vista e basta. Questa è la mia opinione. No, no, ma è chiaro. Dopodiché io ho il sospetto che tutti coloro che dicono oggi non voteremo più nel momento in cui passerà questa legge, lo dicano in questo momento per fare anche una pressione politica nei confronti del Presidente. Però ci sono anche quelli governo. Che direbbero per la prima volta lo voto per questo. Sì, anche, ma io credo che poi le persone, gli italiani, non è che giudicheranno quando si andrà a votare tra un anno, due anni su questo, perché poi se ti arrivano 100 euro, se ti arriva... Oggi hai visto che Poletti annuncia 320 euro a 1 milione di poveri in Italia, ci sarà questo, utilizzeranno subito Poletti i 600. Polanca, no, perché oramai è no, ma sono gli annunci però delle, capisci che queste cose delle poi, regalie a me non sono la politica, però che mi sono piacciono. Forse queste cose quelle che incideranno di più o di meno se mantenute o non mantenute. Forse un po' si illudono sulle regalie, però sulle regalie un po' si illudono. Però Oscar, dobbiamo ripristinare gli 500 Oscar, euro perché... di diciottenni, come hai visto, sono durati lo spazio un mattino, intanto però sono 290 milioni. Ma tu mi insegni che sotto le amministrative arriveranno una settimana prima, ho capito, però la gente di questo tipo di regalie un po' si sconcia. Dici, come oggi chi legge che l'aeroporto di Parma resta aperto per un volo al giorno, la gente si incazza, non è che sì, dice si grazie. Incazza, però poi se ti arrivano 80, noi siamo un po' così italiani, poi ti arrivano, dici mi arrabbio, però no, poi apro la posta e mi arrivano 100 euro. No, però queste 100 euro me le tengo. No, io chi credo che gli italiani non siano più solo quelli dei tempi di Achille Lauro, cioè quelli non avevano le scarpe, è chiaro che quello gliele dava, no? Oggi c'è un'opinione pubblica un po' più sgamata. Tanti si incazzano e aprono gli occhi. Dai, riapriamo però Polanca bella... o Poletti? Poletti, l'edizione degli Polanca. Oscar che abbiamo un po' Io non do l'Oscar, ti giuro, né a Niang, né a Bacca, né ad Alex. A Galdiani, no, a Galdiani. Dai, scherzo. No, dai, al barbiere dei deputati bisogna dargli, perché bravo. Oggi, veramente, i barbieri dei deputati verranno tagliati da 7 a 4. Oh, uno dice, oh, terribile. Però tre di questi verranno il destinati rigore, ad altri colpa incarichi. Colpa dei tedeschi, colpa dei... ci affamano, mio Dio. Tre barbieri della Camera barbiere, diventeranno probabilmente assistenti parlamentari. Dovranno fargli fare qualcos'altro. Assistenti. Voi capite che io mi devo trattenere per ridere, perché bello. Mi verrebbe una litania. Cioè c'è un deputato che avrà come assistente un barbiere. Ma voi capite che questo lo hanno deciso. È la famosa autodichia della Camera, del Senato, sì, certo. E ci sono delle persone da noi strapagate che dicono queste perle di saggezza armonizzano, per cui il barbiere diventa assistente parlamentare. Ma quale acuminata puntaligna bisognerebbe mettergli alla fine del tratto digerente per indurli a ragionare un po' meglio, santo Dio, ecco. È il momento del tuo Oscar. Ma, allora, il mio Oscar va innanzitutto a Paolo Mieli, che insomma fa l'apertura del Corriere della Sera su un tema delicato, non so quanti lettori lo seguiranno, però sacrosanto, perché scopriamo anche qui di avere ricercatori, l'Università di Napoli in questo caso, che falsano le prove delle loro grandissime ricerche contro gli OGM. Stiamo parlando di questa l'epidemia di Zika che si sta diffondendo nel mondo, fa molta paura, molti paesi invitano le donne a non far figli in questo periodo finché non si trova una risposta alla Zika, e già abbiamo un ricercatore italiano che con un falso clamoroso dice che il rimedio, che è una zanzara OGM, non va bene perché è un OGM. Bellissimo questo fondo scientifico. Ma non è la prima volta di Paolo Mieli, è già la seconda volta che nel giro di poco tempo. Però io devo dare anche un premio, perché sono minoritario, a un giornalista coraggioso oggi sulla Stampa di Torino, Alessandro Barbera, l'unico che in due giorni osa scrivere che la Banca d'Italia sabato al Forex ha mentito, perché ha raccontato di aver fatto una battaglia pubblica contro il bail-in che risulterebbe dai suoi documenti. Non c'è nessuno straccio di documento in cui la Banca d'Italia abbia criticato il bail-in prima della risoluzione delle quattro banche. Viva un giornalista che dice la verità contro la Banca d'Italia che mente. E allora, dopo la pubblicità, noi arriveremo sul tema unioni civili, quindi andrei da Bologna, ripartiremo da lei, e poi un ospite, uno che ha organizzato il Family Day, cercherà di convincerci. Oscar già aggrotta le sopracciglia. No, fa bene. No, cercherà di convincerci. Io sono una pecoraccia nera qua. No, del perché lui stia nel giusto, tra poco. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Allora, caro Oscar, eccoci, c'è qui Andrea da Bologna che è lì da un po' di tempo, quindi a lui la parola. Andrea, buongiorno. Sì, saluto e buongiorno a tutti e due. Buongiorno. Una curiosità velocissima, chi è l'ospite che arriva adesso? Adesso glielo presentiamo. Stia con noi, tra un secondo, è già l'ascolta. Beh, ma non svegliamo. Dica. Vabbè, ma era soltanto perché se siamo tra amici lo salutavo volentieri. Allora, vabbè, io ero a Roma sabato scorso, sì, e devo dire la verità, eravamo tanta gente normale. A me dispiace, secondo me quello che si è visto in molti servizi di approfondimento televisivo anche ieri sera, questa forma caricaturale, no? Questa piazza che doveva essere, che è colma di gente un po' ignorante, un po' gente anziana, male informata. Io credo che le caricature, anche politicamente, non hanno questo gran pregio di far aumentare la simpatia di chi le fa. Ma no, ma infatti, ma lei dica perché era in piazza, dica la sua, lascia stare le caricature. Posso dirla, ma la mia opinione è una cosa molto semplice. Io sono democristiano da 30 anni, ero democristiano quando ne avevo 20, sono rimasto democristiano anche adesso. Quando Giannino, giustamente dal suo punto di vista, parla di... Giannino, sono cadute le cuffie. Cioè, ha detto così, sono cadute le cuffie. Sono qua. Io sono democristiano indipendentemente. Le ha recuperate al volo, però. Ecco, quando Giannino dice perché quando uno assume incarichi di governo dovrebbe, e io dico, lo diceva Don Milani, che non mi pare fosse un Doroteo, che prima della legge, qualsiasi legge umana, viene la legge di Dio, e io la vedo così. Probabilmente lo diceva Don Milani. Sì, non sì, io certo apprezzo il fatto che per lei esista la sincerità, cioè lei ci dice, lo dice in maniera che la legge di Dio per lei viene prima quella che quella degli umani. Io apprezzo il fatto che lei ce lo dica. Vabbè, ma per me è la sua posizione. La invito a riflettere. Se uno diventa presidente del Consiglio, secondo lei, può, continuando a pensarla così, come è avvenuto per generazioni di democristiani nel nostro paese, può davvero esercitare la funzione di Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, che deve promulgare le leggi, e dire in pubblico e davvero poi allinearsi alla direttrice per la quale la legge di Dio viene prima della legge degli uomini? Si dia una risposta. In Iran sì. No, in Iran, è ovvio sì. Che la risposta è no, perché viviamo in uno stato laico, ma mica perché rappresentiamo l'eccezione demoniaca del mondo, anzi. Comunque Andrea, lei la pensa così, ma è il momento di svelare, visto che era curioso l'ospite, che è Paolo Maria Floris, vicepresidente del Movimento Identità Cristiana. Buongiorno. Buongiorno. Tra gli organizzatori del Family Day, giusto? Sì, certamente. Senta, lei è uno di quelli che vuole dirci se ha votato Renzi e nel caso non lo voterà più? No, non ho votato Renzi, ma non mi sembra particolarmente significativo questo. No, perché sa, c'è questa questione di dire anche Gandolfini, ritirate il disegno di legge, altrimenti questa piazza, come dire, se lo ricorderà. Ecco. Ma questo tutte le piazze lo dicono gli uomini politici, fate questo, fate quello, altrimenti alle urne ce ne ricorderemo. Quindi da questo punto di vista vede una coerenza in questo? Non c'è una coerenza e direi anche una normalità, perché è normale che un popolo, un elettorato, si rivolga a chi li vuole rappresentare facendo presenti le proprie esigenze. E questo slogan l'ho sentito in molte piazze, ce ne ricorderemo. Ma visto che lei è molto sintetico, ci dice in 30 secondi che cosa non le piace di questa legge Cirinnà? Qual è il punto? O è la legge in quanto tale? Qual è la legge non deve tutta? Passare. Esatto. No, la legge complessivamente è molto confusa, tant'è vero che fa continui rinvii a altre leggi, al codice civile sul matrimonio, quindi non ha una struttura coerente da un lato, dall'altro poi nei contenuti siamo completamente in disaccordo, perché noi crediamo che le unioni civili non possano essere inquadrate in una forma di paramatrimonio. Si parla di formazioni sociali, si fa riferimento all'articolo 2 della Costituzione, ma in realtà la Costituzione proprio nel porre l'articolo 2 ha parlato di formazioni sociali, ma poi da queste ha staccato il matrimonio dedicandogli ben 3 articoli, il 29, il 30 e il 31. Ma scusi, ma se lo si chiama in un altro modo, virgola, ha altre conseguenze, in che cosa il fatto che tutte le volte che si prova, IDICO e così via, nel tempo a fare quello che hanno fatto tutti gli altri paesi europei, cioè a riconoscere dei diritti e una tutela a una forma rafforzata di impegno comune assunto di fronte alla legge e all'ordinamento da cittadini della Repubblica, non riguarda affatto solo gli omosessuali, come sa, riguarda anche le convivenze di ogni tipo, anche di anziani eterosessuali o eccetera eccetera. Ma perché in ogni volta che questa distinzione viene fatta e di volta in volta scende di livello, proprio perché scatta la risposta, dice no, è come la famiglia, quindi no. Non è come la famiglia. Dunque, ci sono da fare alcune precisazioni in quello che lei ha detto. Primo, nel disegno di legge si parla di unioni civili per coppie dello stesso sesso, quindi non di qualsiasi altro sesso, primo, all'articolo iniziale. Secondo, questo fatto che l'Europa avanzata, si dice, ce lo chiede, appunto è l'Europa avanzata, poi bisogna vedere che cosa vuol dire avanzata. No, avanzata lo dice lei, perché lo carica di un giudizio morale. Io ho detto la Corte Europea dei diritti umani. Ecco, non la Corte Europea può dire quello che vuole, ma su tantissimi. Può dire quello che vuole. No, certamente, perché non è che noi abbiamo una sovranità nel nostro ordinamento, possiamo ragionare come vogliamo uno. Secondo, poi, mi sembra che 160 nazioni aderenti all'ONU su 193 non riconoscono questo tipo di unioni. Quindi non è che siamo poi soli nel mondo Quante? Fare un ragionamento di questo tipo. No, questa mi sfugge. Ma questo è l'atteggiamento più radicale intransigente, cioè che dice non è vero che c'è il matrimonio omosessuale in molti paesi europei. Ma lasciamo il matrimonio, anche l'unione civile. Siamo all'attacco del demonio. Cioè due persone dello stesso sesso, lei è d'accordo oppure no che possano avere diritto a vivere insieme anche con quello che comporta, per esempio, con l'assistenza previdenziale in caso di scomparsa uno dei due? Rientra tutto in un sistema di garanzie dei diritti individuali che già c'è e laddove vi fossero delle lacune nell'ordinamento si potrebbe. Beh, già c'è. No, come già c'è? Scusi, se due uomini. No, questo o due il problema donne, è che nel diritto individuale lei disconosce il fatto che derivi dall'assumere un impegno di fronte all'ordinamento. Ma infatti, voi ne fate una questione di diritti individuali perché non volete alcun tipo di introduzione di impegno riconosciuto di fronte alla legge. Noi parliamo di matrimonio, come ci ha ricordato anche la giurisprudenza costituzionale, come un istituto millenario ed unico. Non possono esserci matrimoni di tipo A, matrimoni di tipo B. Per quanto riguarda invece il sistema dei diritti individuali, quelli sono garantiti e, ripeto, laddove non fossero garantiti si può intervenire nella normativa di settore. Le faccio un esempio. Si parla per esempio delle successioni testamentali. Sì, benissimo, esatto. Si vari il codice nel punto. Quindi in cui parla quei cambiamenti si possono fare nei codici, ma esatto, non con una norma come questa sulla unione civile. Esatto. Immagino che sulla questione della cosiddetta stepchild adoption, cioè l'adozione da parte del partner dello stesso sesso del bambino, manco vuole sentirne parlare. No, ma non è che non ne voglio sentire. Cioè, nel senso, sarà contrarissimo. Un dato: ci sono 35.000 bambini in Italia che aspettano l'adozione, sì, e per la complessità della legge sulla. Però, Floris, facciamo un esempio pratico. Io vivo con un uomo, ho un figlio da una precedente relazione eterosessuale, poi ho una relazione omosessuale e questo bambino viene cresciuto per 15 anni dal mio compagno. Io muoio dopo questi 15 anni. No. Questo mio compagno è niente secondo lei per il figlio? E ribadisco, quello che lei ha detto, che le unioni civili non sono per eterosessuali, può ripeterlo? È così secondo lei? Nel testo della CIDINA non c'è scritto che sono per eterosessuali, c'è scritto, mi pare, che sono dello stesso sesso. Bene, allora, siccome, ripeto, questo, allora, lei scende in piazza, adesso mi dice mi pare. Il problema è le unioni di fatto nel nostro ordinamento, anche questo testo è aperto non solo esclusivamente, come lei dice, no, ci sono dei passaggi, se lei mi permette, dei passaggi precisi quando fanno rinvio comunque alle unioni che parlano di persone dello stesso sesso. Queste unioni civili di cui si parla nel testo sono per unioni di persone che assumono questi impegni, che siano eterosessuali o omosessuali. Allora, mi perdoni se le faccio osservare, con tutto il rispetto assoluto per i valori che la spingono a fare questa battaglia per la famiglia ex articolo 29, che se però si comincia a dire che questo testo nasce solo ed è rivolto e si applica solo alle coppie omosessuali, quando, mi dispiace doverlo dire, non è vero, però è mio compito dirlo in quanto giornalista, perché basta aprire uno qualunque dei tanti testi che spiega la disegno di legge Cirinà per capire che si tratta. È uno dei quali testi che spiega. Io parlo adesso dei rinvii continui che fa il testo della legge Cirinà al codice. Ma, esattamente. Allora, non siamo d'accordo neanche su a chi si applica. Però l'unione. Io la domanda che le ho fatto e stava rispondendo. Torniamo alla domanda precedente. Lei ha detto, io le ho detto, parlando del problema della nostra più o meno presunta essere indietro rispetto alla sì. Io ho detto, se 160 nazioni aderenti all'ONU non hanno questo tipo di codificazione, qualcosa vorrà dire. No, ma mi dica quel figlio cresciuto 15 anni dal mio padre. Perché molte hanno quello del matrimonio omosessuale. Cioè, che cos'è per quel figlio quella persona? Nulla? Un amico? No, ma questo un... lo potrà stabilire il magistrato, ma non stabilendo in anticipo cosa succede. Perché vede, come il problema che io le dicevo prima rispetto al diritto. Ma un magistrato, ma l'ha cresciuto, cioè l'ha vestito, gli ha comprato i vestiti, l'ha portato in vacanza, gli ha permesso di andare a scuola. Di caso in caso che cosa di caso in caso, dire. I diritti non ci sono. Non è che non ci sono, vede, il problema è questo continuare, il punto di rimente è continuare a confondere i diritti con le istituzioni. Certo. L'istituzione famiglia, la nostra Costituzione la definisce società naturale fondata sul matrimonio. Per quei tempi era diverso e oggi è diverso. No, la faccio parlare, però lei pretende di dire che un testo non si applica a chi si applica. Io la faccio parlare, però non è che posso farle dire quello che non è. Scusi. No, mi dispiace perché lei parte innanzitutto da una cosa che non è. Cioè lei dice questo testo è solo per gli omosessuali. E invece non è vero. Uno, due. È ovvio che se lei dice solo diritti individuali, perché le unioni civili significa non devono esistere, allora per questo lei parla solo di diritti individuali. Terzo, per quello che riguarda i bambini, dice neanche i diritti della parola preesistente, perché lì ci deve pensare il giudice, perché se io accetto l'idea di un diritto per la parola preesistente, dice, cioè per un soggetto giudice, debole, faccio un passo verso la cosa che non voglio. No, però lei mi sta dicendo un'altra cosa, io le stavo cercando di spiegare che il problema della famiglia, così come è definito dalla Costituzione, ne fa un'istituzione autonoma, quindi non è un problema di diritti. E come le dico, il sistema di garanzie dei diritti individuali già c'è e si può completare, capito? Invece mi torna sempre sul problema dei diritti, dei diritti. Io le sto dicendo che nel caso, un caso, perché non tutti i figli che sono tipologie come quello del caso che lei ha citato, il caso particolare, il caso eccezionale, potrà essere affrontato in sede, diciamo, di magistratura. Sì. No, questa è la posizione sua, molto chiara. Noi ci dobbiamo fermare qui. Mi spiace per Laura da Varese, Lorenzo da Bologna, Marco Frosinone. In questi giorni ne parleremo. Il Senato si balla. Quindi. Se possiamo, ci teniamo questi numeri di questi ascoltatori e domani stesso li faremo intervenire. Perdonatemi per la passione con cui intervengo, però è un tema che effettivamente. Alla Radio 24 la passione si sente, no? Ecco. Comunque, grazie a Paolo Maria Floris, vicepresidente del Movimento grazie, Identità. Davvero. Cristiana, per essere stato con noi. Ci dobbiamo fermare, caro Oscar. Vado ad armonizzarmi con un caffè. Armonizziamoci, va davvero, armonizziamoci. Va bene. Viva i barbieri assistenti parlamentari. Salutiamo Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè e Carmelo Lauricella oggi in regia. Doppietta, quasi come i tre gol ieri del Milan. Ah, lo sapevo che chiudevi su questo. Ciao. Alino e Giannino. E come quel gattino che di primo mattino ti viene vicino e poi...